Diretta del sabato sera. In studio c'è Master Nick e siamo in attesa dei collegamenti live con le sale dei DJ del ristorante convento. Buon ascolto. Sì, ci siamo anche questa sera. Accendiamo i nostri microfoni per un altro sabato dinner and dance al convento di Nonato, come è ormai consuetudine fare questa sorta di aperitivo pre-discoteca o pre-disco. Il vecchio pre-disco, non va più il pre-disco, Alex Angioletti, buonasera. Buonasera a tutti, siamo in diretta, ore 22:30, proprio spaccati. Ok, spaccati. È sabato dinner and dance battiamo del convento, battiamo l'orologio. Però il pre-disco non c'è più, era una cosa anni 2000, no? C'è già un po' perso il momento pre-disco. Devo dire la verità, in effetti mi manca un po', anche perché era il momento di ritrovo, il momento di organizzazione. Bravo. Poi dopo c'era il PR che ovviamente ci mettevano lo zampino, quindi ti aiutavano anche a scegliere. Però dipende, quello era il pre-disco, come dire, massimizzato, ai massimi sistemi. Sì, ma se fa... il pre-disco locale, sì, almeno per me, era il ritrovo nel bar del paese, sì, il bar del centro, certo. Con le due chiacchiere. Le solite compagnie, la partitina carte. Pre-serata, magari... non proprio quello, però no, io sì. Pre-serata, magari una chiacchiera sul posticipo, sulla partita che era appena finita. Secondo me era anche un far l'appello. Ci siamo bravo, tutti. Bravo. Guarda, c'è lei. Perché ci davamo un orario, poi più o meno la spicciolata arrivavano, sapevi chi mancava, sì. E poi si partiva. Però non so se c'è ancora quell'abitudine. No. Si è persa. Devo dire la verità, un po' i ragazzi che secondo me si danno già definitivamente una appuntamento con già tutta l'organizzazione, sì, del caso, esatto, a parte esatto. Qualche ragazzo un po' più giovane, mi è capitato di fare qualche domanda così da curiosone, ecco, insomma, cosa fai stasera? Devo vedere, è vero, perché sì, è vero, c'è un po', come dire, una parte di mondo che si organizza in modo meticoloso, bravo, sì. Certosino mi stava venendo, però siamo lì, e un'altra parte invece che è quasi improvvisa, come viene forse gode anche un po' di quel vivere la vita così, però ce l'hanno un po' la meta, sì secondo me ce l'hanno la meta fissa, vuol dire guarda, discoteca è quella lì, però nel frattempo non lo so, anche sì, anche oppure hanno, come dire, l'opzione B, la carapon vecchia, opzione B, quella che va sempre bene, che sarebbe vediamo un attimo. Quella, nel senso, okay. hai già un posto in testa, sì. Per cui cerchi di creare qualcosa. Se poi dalla prima creazione non arriva nulla, sì, beh dai, andiamo lì che siamo sicuri. Anche perché se sei in compagnia anche di due, tre amici, tre amiche, quel che sia, un gruppo misto, ecco, maschile e femminile, insomma, cerchi anche di non importare, fai il democratico, no? Bene. Però magari alla fine tiri fuori la perla, dico, ma perché non andiamo lì? Dipende anche un po' dai ruoli che ci sono all'interno, sì, del gruppo stesso, perché sono leader, delle dinamiche interne all'interno del gruppo, quelle sono altre cose. Poi dai, i ruoli anche cambiano e si evolvono. Poi ci vorrebbe la dottoressa nell'arco della settimana, la dottoressa, a come va la settimana. Bravo. Okay. Allora facciamo Così, pre-disco. Creiamo noi un po' questo momento predisco, lo creiamo radiofonico all'interno. Ma che musica ascoltava? Di Risto Radio Convento. Che musica si ascoltava? Che musica si ascolterà stasera, quello lo sai tu, ce lo devi dire tu. Dove ci penso io? No, io non ascoltavo musica alla predisco, perché ripeto, dal punto di vista di un paesino, per noi il predisco era ritrovarsi al bar centrale del paese. Poi dipende anche il giorno della settimana, perché se era il sabato sempre sabato. Okay. No, domenica si partiva dalle 4-5 del pomeriggio, già, sì. E poi si andava lunghi fino al dopo cena. Famosi pomeridiani. Bravo, famosi pomeridiani che in alcuni casi sono sfociati, non nel mio perché non mi piaceva, però alcuni andava forte anche la discoteca. Sì, sì, alle 4 del pomeriggio. Le famose ragazze che si trasformavano in donne. Esatto, anzi, c'erano dei temerari che andavano in discoteca al sabato, sì. Quindi fino alle 3, 4, 5 del mattino, sì. Si svegliavano a mezzogiorno, pranzo fugale che poi era colazione, oddio, insieme, no. Si svegliavano a mezzogiorno, pranzo, colazione tutti insieme, e alle 4 tornavano in discoteca. Ma no, sì, no. No, però poi lì io... Pesante, devi avere il fisico per reggere. Parliamo di musica, andiamo a fare una dedica, andiamo a ripescare un disco. vuoi ripescare un disco, va bene, allora vediamo cosa ci propone. Hai la nostra programmazione musicale? Okay. Sì, sì, abbiamo già caricato un bel duetto, o meglio, uno ci mette le mani e gli altri ci mettono voce e strumenti. Okay. Però in entrambi i casi parliamo di due numeri uno. Ok, vado a leggere un attimo. Assolutamente sì. Guarda un po', direi, grandi nomi, un gran produttore e una grande band. Ho capito, va bene, dai, dai, ascoltiamola. Ascoltiamola, che poi facciamo anche quattro chiacchiere, come nostra consuetudine, parlare del nulla per arrivare a parlare di tutto. E prima della nostra serata con il nostro DJ Gale, che aprirà le danze con la Delicomania, e poi il nostro DJ Alex Angioletti, che continuerà queste danze con la sua serata in musica. Detto ciò, come accennavi prima tu, andiamo con Born to be Yours. Cantano gli Imagine Dragons con le sapienti mani del gran produttore Kygo. I know I've given up 100 times before. Radio Convento, le new hit del momento. Imagine Dragons e Kygo, Born Mamma to be mia. Yours, sì, che sì. Pezzo, bravo, che bravo, pezzo, bravo. Come suona quella musica si qua, dice che pezzo. Come suona Risto Radio Convento, ragazzi. Come dice la Elisa, che pezzo, yeah, pezzo. Che pezzo, che pezzo, veramente bello. Quando allora, c'è la musica bella non c'è nulla da fare, ci si deve inchinare qualunque sia il genere. Davvero? Basta che sia valido. Valido, ok. Valido, assolutamente sì. Allora, Alex Angioletti, è il momento della notizia della settimana. La notizia della settimana. Perché non è possibile che cosa tu è non abbia letto e sentito, oddio, di questa notizia che ha, come dire, invaso il web, l'internet e sì, anche ha fatto gran scalpore, insomma. Sì, anche proprio la salivazione di, oddio, tutti gli italiani, oddio, una, oddio, cosa veramente. Quindi una, è la cosa che ti prende proprio per la gola, per la ti gola, prende proprio lì. Anzi, ad esempio, non senti un certo languorino, ad esempio, in questo momento, piccolino, pochettino. Sai che negli anni 90 sì, si riempiva quel languorino con un prodotto in particolare, sì, no? Diciamo, ti ricordi la pubblicità? Certo. Ho un languorino. Ho un languorino. E si riempiva. Non facciamo nomi. Non facciamo nomi. Non facciamo pubblicità. Non facciamo nomi, ma rimaniamo nell'ambito, no? Certo. Perché l'azienda, quella è. Quella è. Una quella grande è famiglia. Una grande famiglia, bravo, famiglia italiana soprattutto, che è quello che conta. E dicevo, la notizia della settimana, ragazzi, dal primo di novembre arriveranno i Nutella Biscuit. Mamma mia, quasi quasi mi sembra già di aver sentito questa notizia, però da un'altra parte. Ah sì? Eh sì. L'hai sentita? Eh sì. Beh, non si è parlato d'altro in tutta la settimana, lo so, non però potevamo non parlarne. Attenzione, perché sta per arrivare anche da altre fonti, altre grandi famiglie italiane, una controrisposta. Ah, attenzione, c'è già, come dire, una sfida in casa. Vabbè, vabbè, non approfondiamo, approfondiamo invece quello che succederà. Per cosa succederà? Per darvi un'idea molto molto semplice, sì. E continuiamo a dare marchi, però magari ci può portare fortuna. Presenti Ringo, no? Quello è. Sì, ma invece, molto presente. Molto sì. Presente, però dicevo, invece di avere il doppio strato crema e cioccolato, quindi sarà Nutella, al gusto classico della Poggiata Nutella. Poggiata dove? Nel mezzo. Nel mezzo. Nel mezzo, nel mezzo. Nel mezzo. Però del cammino. La caratteristica, quale da, quanto, da quanto si dice, sarà anche la forma, perché l'esterno sarà rotondo, come okay. Proprio somiglia ai Ringo, per essere più precisi. Sì. Ma l'interno sarà a forma ma di cuore. Ma come mai parli dei Ringo, però in realtà si parla di un'altra famiglia? Perché per dare un'immagine visiva che possa aiutare tutti. Perché tutto, diciamo, no? Sono quelli che. Esatto. Ti avvicinano di più. Ti avvicinano di più, certo. Un po' come Baiocco. Anche bravo, un po' Baiocchi, anche un po' Baiocchi, ma al centro ci sarà un cuore per, come dire, ritrovare un po' l'armonia di casa, l'immagine della casa, dell'amore, della famiglia e tutto il resto. Ovviamente parliamo della Nutella, come detto, a 55 anni dalla nascita di questo marchio. Aspetta, c'è di questa chi grande parliamo? Novità. Di chi parliamo? Nutella dicevo. Nutella. Allora. Dicevo, a 55 anni dalla nascita di questo marchio è stata lanciata questa novità. Sì. Che stando alle idee e alle speranze anche dell'amministratore delegato della ditta che la produce, pensa di arrivare a 80 milioni di euro di fatturato. Vale. Cioè vendite incredibili. Stimano di vendere 25 milioni di pezzi. Ok, va bene. Quindi 25 milioni di biscotti. L'esperimento è partito in quale L'esperimento stato? Partirà in Italia dal primo di novembre. Okay. È partito in Francia ad aprile, quindi hanno iniziato là. Poi ha avuto un grande successo e l'hanno portato qui. Ma non solo, perché hanno avuto la buona, secondo me, idea di fare una sorta di rilevazione, indagini di mercato, però riempiendo lo stomaco degli italiani. Quindi fino al 31 ottobre in piazza Gaia Aulenti a Milano ci sarà modo di assaggiare questi Nutella Biscuit gratuitamente, ovviamente, dopo l'assaggio da un tablet potranno gli utenti, i consumatori, lasciare il loro gradimento, lasciare le loro impressioni. Ovviamente sempre abbastanza alto come gradimento. Non è detto. C'è un ragazzo che si è ascellato. Anche, sono disposti a tutto. E dicevo, potranno lasciare il loro gradimento su questo tablet e queste informazioni aiuteranno quindi Nutella e tutta l'azienda a capire che tipo di impatto ha il prodotto sul mercato, se piace, non piace, cosa c'è da migliorare e cosa no. Ma siamo certi, anche perché ho visto le immagini sui social della suddetta azienda, già c'erano delle code chilometriche ad assaggiare questi Nutella Biscuit, quindi siamo certi che arriveranno nel mercato e la faranno, non so se da padrone, ma sicuramente ma si quasi, prenderanno quasi. Una bella fetta di mercato, anche perché mi dicono che sta per arrivare Natale. No, anzi, cambiamo il detto industriale, non si prende più la fetta di mercato, ma bensì la spalmata di mercato. La spalmata di la mercato, spalmatella. La cazzolata di mercato. Dicevo, poi con l'approssimarsi del Natale siamo vicini e vada sempre. Cazzuola a gogo. No, magari faranno il pacchetto regalo, faranno il pacchettino, eccetera, eccetera. Allora, c'era Fiorello che quando aiuterà. Faceva le dirette con Sky, che ovviamente lo sponsor principale era Ferrero. Ok. C'è stato uno dei tanti scherzi, lui ha citato giustamente la famiglia dicendo ma dico io il signor Ferrero un giorno si alza e dice un certo langurino, giusto? Quel langurino lì nasce proprio il Ferrero Rocher. Ok? Quel Ferrero Rocher praticamente non è che piace solo a lui, piace a tutti, e quindi spacca. Poi dopo tutto un tratto cosa fa? Oddio, è il momento di ciliegie. Oddio, facciamo il... come si chiama? Mon Cheri, che però non ho mai apprezzato. Ecco, il tuo dolce preferito il sempre tuo... dello stesso marchio? No, in generale, cioè non però non dolce, il tuo, come vorrei chiamarlo, diciamo sfizio preferito, cioè quella cosa lì, quella cosa piccolina, quell'anguorino. Posso dire la verità? Vai. Allora, la crema pan di stella, ragazzi, spacca. La crema pan di stelle, ma dove? Cioè, a cucchiaiate? Eh sì, così va, vai a cucchiaino. Tu pensa che, essendo che all'interno non, degli ingredienti base non c'è l'olio di palma, ok, e c'è l'olio di girasole, cosa succede? Io l'ho provata, no? Praticamente tu pulisci automaticamente il vasetto. Certo. Cioè, tu mentre lo consumi, il vasetto si pulisce, perché appunto la crema tende a non attaccarsi, a non sulle addensarsi pareti, sulle pareti. Perché non è grassosa, capito? Ok. È densa. Vabbè, densa. Ecco, densosa. Vedi che siamo anche arrivati a parlare di scienza sui vasetti. E poi dentro c'è anche biscotto, eh. Quindi anche quello, buono. Quindi il tuo sfizio è quello, sì, la cucchiaiata. Buonissimo. La cucchiaiata di. Ah, sì, però che secondo me ti mette buon umore. Crema di ti mette buon umore. Zuccheri. Parte. Ma poi è sempre zuccheri dolci. La differenza del crema del pandistello con la Nutella è che quando te prendi un cucchiaino, lo appoggi sul palato, sì, della lingua, sì, non ti rimane tutta, diciamo, tutta patinata la lingua, no? Sì. Ma bensì dopo va piano piano a sciogliersi. Ah, mentre okay, al contrario lì praticamente la stucchi la lingua. Ah, certo, ah, certo. Va bene, quindi questa è la novità che arriverà sul mercato a brevissimo. Sì, vedremo. Sì, però assaggeremo, ecco, molto assaggeremo, assaggeremo, bravi, bravi. Con piacere, e assaggiamo musicalmente parlando anche il nuovo singolo di un bravissimo artista italiano. Lui è scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio, come se fossimo al buio nella notte. Vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio. Ma non per arrivare a te. Se devo scalare la tua gelosia, preferirei una piramide. Bevevo acqua con occhi soltanto per calmarmi. Giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio, come se fossimo al buio nella notte. Vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio. L'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine. Mai, non sparire mai come Iside. Mai, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte. Vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio. Tanto suona sempre il buio. Tanto suona sempre il buio. Mamma mia come si balla! Il nuovo singolo di Mahmood che spacca. Ma si cosa chiama spacca? Barrio. Spacca i timpani. In senso buono, in senso, ah, okay, buono. Va, in senso ma buono. Non è Mahmood? Sì, proprio. No, quello. Non è Mahmood. No, io non pensavo che fosse Mahmood. Che ignorante. Allora, ci ha raggiunto anche il nostro Sandrino, anche perché no, diciamo dai, che per la prima volta in trio, no, qui in onda, direi una bella cosa. Però, il trio Mahmood. Sei tra due zucche, tra l'altro. Anche. Però Sandrino ci ha raggiunti per parlare di un altro argomento di grande interesse e discussione, sì, quale di questo periodo. E ma, anche, te le sei anche tutte? Vabbè, perché è persona coinvolta, in prima persona come me, poi vedremo se anche il nostro Angioletti lo è. Pensa che non so neanche quello che devo dire, però. No, tranquillo, ci siamo preparati prima. E dicevo, nell'intervento precedente abbiamo parlato della novità della notizia della settimana dei Nutella Biscuit che arriveranno nel mercato da novembre. Quella. Ma l'altra grande notizia della settimana Qual è? L'influenza che sta prendendo 6 milioni di italiani. L'influenza sta prendendo 6 milioni di italiani che hanno Instagram. E diciamo, esatto, è stata colpa di una influencer. Per me c'è un virus giusto, su Instagram. Ha fatto una foto con il termometro. Abbiamo chiamato Sandrino come persona interessata dei fatti, perché sentite chiaramente dalla sua voce palesemente nasale che è influencer. È la febbre. Esatto, è febbre. Io sto parlando cinese col raffreddore. Io ne sono appena uscito, ma sono ancora lì sul ciglio della porta e rischio di rientrarci. Angioletti, come stai? Bene, grazie. Bene, quindi l'unico che in forma è il nostro Alex Angioletti. Intanto ogni tanto sentirete in diretta delle soffiate naso che alzano tra l'altro gli ascolti, quindi ne approfittiamo appunto per questo. Allora, vogliamo dare un paio di indicazioni importanti anche agli amici a casa, visto che magari in fondo sono a destra c'è il bagno. Anche, ecco, che è sempre l'indicazione principale. Esatto. Dicevo, magari colpiti anche loro, visto che 6 milioni sono affebbrati, a letto con la febbre, e quindi magari... Gli altri 6 milioni a febbraio. A febbraio, bravo. Dicevo, la maggioranza può essere colpita. Intanto partiamo dicendo che le persone più soggette possono essere persone anziane, neonati e pazienti affetti da malattie croniche. Rientri in una delle tre categorie? Anche i single. Anche i single, fantastico. Anche i single. Rientri in una delle tre categorie citate? Negli anziani. Persone anziane, neonati, pazienti affetti da malattie croniche. Posso dire, rincoglioniti. Quella non c'è. Beh, possiamo crearne una nuova. Quindi anche nei rincoglionimenti, come dire, terapeutici. Beh, però i single c'era un motivo. Perché i single sì, sì, hanno bisogno. Perché non hanno la vitamina. Esatto. Gli manca l'affetto e quindi si ammalano di più. Si ammalano di più. Quindi abbracciate un quindi single. Quindi praticamente a gennaio ci sono solamente le coppiette in giro. Sì. No, ma io voglio fare un appello per salvare la popolazione. Abbracciate un single. Bella, così per fargli del bene, solamente per salvarlo dall'influenza. C'è solo single. Esatto. Abbracciatevi. Ti abbraccio? C'è. No, non adesso. C'è la terapia dell'abbraccio, che si chiama hug therapy in inglese, e appunto dice che un abbraccio gratuito, c'è anche gente con i cartelli con scritto abbracciami, un abbraccio gratis, ti dia delle sensazioni positive, feromoni, bravo. Si chiama feromoni positivi, eccetera eccetera. Comunque, andando avanti con i sintomi, vediamo Sandrino quanti ne hai e quanti no. Febbre alta, solo il sabato sera. Poi brividi, quando ti vedo. Mal di testa, quando ascolto Angioletti. Quando ero fidanzato. No, no, sempre mal di testa. Io. Dolori muscolari, dopo aver passato 5 minuti da solo con me stesso. Tosse. tosse a forza di ridere quando ti ascolto in radio. Mal di gola. Mal di gola è quello, non specifichiamo il perché. Perfetto. Okay. Però quello che conta, indipendentemente dal prendere medicine, sono i famosissimi, fantastici, sempre validi rimedi della nonna. Fantastico. Ma lo sai che famoso rimedio della nonna, io lo conosco. Ce l'hai, ce l'hai anche Ivana. Qual è? La famosa mia febbre fulminante durante la serata. Ve la ricordate questa storia qui? No. Ero in console, tutto un tratto mi sono sentito male. Ho chiamato il DJ Gale e ho detto sostituiscimi perché sto per svenire. Cos'hai? La febbre da cavallo, cioè praticamente avevo un 39 di picco, sono sentito malissimo. Così, in due minuti, Livana ha preso la situazione in mano. In che senso? Ha detto, Angioletti mettiti sul divano, tranquillo, ci pensava Livana. Cosa mi ha portato? Latte caldo con la grappa. Latte grappa, c'è una scuola di pensiero, la tua è? No, del latte con la grappa? No, la tua scuola di pensiero del rimedio della nonna. No, io ce l'ho per il mal di gola, è ufficiale. L'ho fatto, perché sono contro i medicinali, ragazzi. Ho preso un mezzo bicchiere d'acqua, un cucchiaino di sale fino, okay, mezzo limone spremuto dentro, lo mischi, fai gargarismi, ti passa mal di gola, ragazzi. Passa, okay. E ti passa. Grande rimedio. Ok, qui consigliano, per chiaramente far passare l'influenza, il brodo di pollo, perché dicono ci siano proteine che accelerano il rinforzo della membrana dei globuli bianchi. Mai provato? Zero, no? Attenzione anche cipolla e aglio, perché hanno proprietà antisettiche. Ecco perché uno rimane single dopo. E questa invece io l'ho provata ed è interessante. Respirare i vapori caldi di una pentola con acqua in ebollizione, in cui siano state disciolte essenze balsamiche. E questo è uno dei rimedi invece più conosciuti. Io l'ho fatto una volta con la pentola a pressione, ma ha avuto degli effetti devastanti a un certo punto. C'è rimasto troppo. Davvero? Hai fatto solo le fagiolate. Hai iniziato a fischiare, non capisco niente. No, però quella è vera, quella dell'acqua. Beh, io non lo so. dato un pentolino dell'acqua calda con i vapori balsamico, okay. Il vapore balsamico, quello è famosissimi su fumigi. Bravo, su fumigi. Su fumigi. Che? Su fumigi. Cos'è la televisione? Su fumigi. Su fumigi. Su fumigi. È piano di sopra, su fumigi e giù. Ma come andrà? Su tu. Oppure anche un po' sembra un giapponese. Su fumigi. Su fumigi. Su fumigi. Su fumigi. Bene, questo quindi era il momento medicina 33. Sì, perché 33 non è giustamente la medicina, ma sono i centimetri. Il numero civico. Ah, scusa, civico, ho sbagliato. Civico. E abbiamo usato quindi il nostro Sandrino come cavia per i 33. Sì, per i 33. Si spogli. Come cavia. Potrebbe essere. Io speriamo che me la cavio. Tra l'altro, salutiamo anche. Allora, posso raccontare la barzelletta? A parte, meglio posso che non dici una... Posso raccontare la barzelletta? La barzelletta sull'intervento. No, perché medicina. È venuto su quella del medico. Va bene, vedi, allora, c'entra, così c'entra. Oddio, è arrivato su. Veloce. Allora, una coppia non riesce ad avere figli. Allora va dal ginecologo e chiede informazioni. Praticamente, dopo due domande abbastanza intime, il ginecologo capisce che loro non fanno l'amore, o che non fanno sesso durante la settimana. Allora, lì per lì, il ginecologo, preso dalla sua forte professionalità, ha deciso di abbassare le braghe e far accomodare la signora praticamente nel lettino professionale. E via che ci si dare, fanno sesso completo. Allora, dopo. Ma col dottore o col marito? No. Il dottore con la signora, Okay. E ovviamente dopo che ha smesso di fare sesso completo con la signora, sì, si è rivolto al marito e ha detto: ha visto come si fa? Bene, faccia così durante la settimana e vedrete che voi avrete un bambino non tanto tempo. Voglia una grande laurea, okay. Però bene. Allora i signori si rivestono, vanno fuori, ringraziano il dottore. Dopo un po' si sente bussare. Scusi dottore, però non abbiamo capito, ma viene lei a casa nostra o dobbiamo venire noi da lei? Applausi, l'ironia siciliana direi veramente, che comanda. Brividi, mi sta venendo l'influenza. Sì, assolutamente. Allora, a proposito di comandi, ce n'è arrivato uno molto chiaro, sì, cioè ragazzi, fuori, a lavorare. E via. Quindi cogliamo l'occasione per salutarvi e ringraziarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata. Alex vi Angioletti. Lasciamo con Robin Schulz e Shadowlight. Sandrino. Ciao da Sandrino. Master Nick. Ciao. Ciao.